comici io considero solo Otto, Alberto Sordi e Carlo Verdone un po' si assomiglia, e tutto il resto non ce n'è. Anche Carlo Verdone non è che faccia morire da ridere, cioè, sinceramente, vabbè, a me mi piace niente, mi piacciono pochi. Poi a me piace Lino Banfi, Lino Banfi già mi fa ridere. Quello che faceva Pierino, che oramai è Fabio Passato, e poi chi c'è che mi fa ridere, ma mi sbaglio nessuno. Però abbiamo dei personaggi tipo Brignano, Pinto, non so se hai mai visto Brignano, mi fa pisciare dalle risate a me, però li fai il film è una gagata, cioè lui come spettacolo è bravissimo, poi li fai fare il film neanche 5 minuti riesco a guardare. Ma Brignano è bello vederlo al vivo, era venuto anche al Verdi a Sassari. Brignano è bello vederlo al vivo perché faccio i dialoghi e sono allucinanti, però anche come attore non è che sia chissà cosa. E infatti si perde, considerando che sa fare un sacco di parti, di gol, su tutte le cose possibili e immaginabili lui riesce a farle, però come attore i film che ha fatto, ho provato a guardarne qualcuno, ma vero assoluto, non mi piace. Io infatti i film italiani raramente ne guardo, io guardo solo film internazionali, a parte magari qualche film che ha preso l'Oscar, cose così che magari sono più impegnati, ma sono sempre filmetti che non valgono niente, non per essere, no, io sono molto nazionalista, ma nei film ormai è morto il cinema italiano, non esiste più. Vabbè, della televisione vedi questi serial che danno, Scuola di Gozzo, di Polizia, Scuola dell'Aviazione, Scuola Don Matteo, Don Ghizzo, ce ne sono 2000 di questi, quindi gli attori, ma non me ne sono usciti più. A me piace molto Gozzo, Cristian Di Sica, Jerry Calà mi fa di morire, a me Jerry Calà, per me è il migliore Jerry Calà, mi piace troppo. Come escono i film sul canale 34 di Jerry Calà me li guardano tutti, quelli Natale, a Cortina, tutte quelle cose lì, Vacanze Natale, tutte quelle cose. L'altro giorno mi sono visto per la centesima volta il ragazzo del Pony Express, mi fa di morire, mi piace proprio, Jerry Calà mi piace proprio. Sì, sì, quel periodo lì di Jerry Calà, no Jerry Calà, di Cristian De Sica, io ero andato al cinema, veramente andavo a vedere questi film di Natale, avevo visto che proprio mi hanno fatto ridere, SPQR, te lo ricordi, dicono, con Cristian De Sica ai tempi del romano. Sì, sì, sì, SPQR ha fatto anche quello, Cristian De Sica era forte quando era con Massimo Boldi, era forte, quindi Massimo Boldi non mi fa ridere. Massimo Boldi mi faceva ridere insieme a De Sica, ma da quando ha iniziato a fare film da solo, vabbè adesso si sarà anche ritirato, non mi ha più fatto ridere. Sì, ormai, erano quei film che tutti i Natali venivano, Natale a Roma, Natale a Parigi, Natale a Hawaii, Natale a Miami, ne aveva fatto pochi, ogni anno ce n'era uno di questi film. Vediamo se Fabrizio ha ricomposto il microfono, avanti Fabrizio, Luca. Via, sono qua. Ce ne sono film belli, dai. A me Fantuzzi mi ricorda, come si dice, la mia infanzia. No, proprio zero. Qualche battutina, qualche scena così. Quando lui si girava a me mi piaceva, prendeva la scena del biliardo, te la ricordi? Cosa? Mi piaceva qualche scena, l'unica scena che riusciva a guardare è quando lui si ribellava, per dire la scena del biliardo, che diceva coglionazzo, veramente, che poi si è girato e ha battuto il grande capo, super capo, l'ha umiliato, te lo ricordi quella scena? Ma ce ne sono tanti di quei film, come era quello della lotteria. Ma poi Fantuzzi ha fatto quelli, il signor Robinson che era nell'isola, non so se tu ricordi, Robinson Crusoe, che lui era caduto naufrago nell'isola. Tanti non è che me li ricordo, comunque ne ho visto, io andavo anche al cinema a guardarmi, c'era mio zio che lavorava lì, che non pagavo mai. E a che cinema lavorava tu? Era moderno. Al moderno. Ma ci trova ancora tu zio? Certo. Ah no, perché ne conoscevo altri. Vabbè, il cognome non lo dico, ragazzi, no, perché ne conoscevo gente di lì. C'è bisogno, Isio Sanna. Ma ci che lo conosca, perché io ne conoscevo il padrone, bene, bene. Siamo usciti qualche volta da giovani in compagnia nella nostra greca, stava un personaggio tra parentesi, però quello è il padrone proprio dei film. Poi conoscevo la spalla del coso che è morto, che il figlio fa il DJ, non so se lo conosco. No. famoso in tutto il mondo, il figlio è diventato, ha iniziato a fare un po' di mixaggi, cose così, si chiama Killer, DJ Killer, ed è in tutto il mondo, lui, se tu cerchi su internet, il figlio di Desovus, che era il braccio destro di Guarino, dai. No, aspetta, alle quattro colonne ha lavorato mio zio, e poi qualche giornata ha fatto lì al Moderno, ma poco mi sa lavorato. Ma grande tuo zio, quanti anni? Mio zio c'ha una settantina d'anni. Sicuramente l'ho conosciuto, perché più o meno quelli del cinema li ho conosciuti tutti, molti sono venuti in officina. Boh. Avanti Eugenio, anzi come ti chiama Bombolino, genio. Vabbè, quella era una battuta oramai vecchia, il genio della lampa, sono finite qua, poi c'era il genio quello della Striscia la Notizia, bah. Ecco perché mi piace il mio nome. Io ho mia cugina che si chiamava Franca Maria, se ne ha fatto togliere il nome, non so, è stato anni prima di fare, perché la legge ha fatto l'avvocato, tu non hai cosa ha dovuto scomodare per togliersi questo secondo nome che a lei non gli piaceva. È un problema, cioè se, ora non so se te lo puoi cambiare il nome, però il cognome sì, perché io ho un amico che si chiamava come una parolaccia, ed ha avuto una figlia e cioè ci devono essere delle ottime motivazioni per cambiarsi il cognome o il nome, e lui è riuscito a cambiarsi il cognome. Sì, con la TR inizia per caso. Sì. Ma davvero Santa Maria Palma c'è, però lo pronunciano Truia anziché detto normalmente. E vabbè, lui ci ha fatto cambiare il cognome. Io ne conosco uno che si chiama di cognome Maiale, il fratello se l'ha fatto cambiare. Sì, ci sono questi cognomi qua strani. Noi lo chiamiamo Oborco, se lo vedi pesa 250 kg. Ma sinceramente, non perché ci sei tu, non è un nome, a me piace Eugenio, cioè no, non è un nome brutto, è un bel nome, ce ne sono certi, cacchio, mamma mia, non voglio intesi. Reghito di coso, di sorso, Ayrton Serra si chiama. C'è anche qua con Torres Ayrton Serra. C'è anche qua con Torres. Vabbè, c'è anche Chanel. È quello che l'ha chiamato Moana Puzzu, non l'hai vista quell'altra, sempre zona del sorso. No, così no, cioè così è rovinare una bambina. E in officina ne è giunto uno, io non so, di Torino questo qua, insegnante, studente, lo sai come si chiamava? Di nome si chiamava Sauro, e di cognome Piccolo. Quando me l'ha detto, ma c'è un Piccolo Sauro. Ci sono questi nomi strani, vabbè. Si mangia di tutto, la faccia di Ghittino. Poi viene uno, questo non lo conosco, però sempre senza dire niente al socio, sono meglio di noi. Questo qua è il collega di un amico, di un signore grande, una certa età, il figlio l'ha chiamato Emiciclo, perché lui era convinto che Emiciclo fosse il nome di Garibaldi, allora chiamando Emiciclo per dire Campus. Lui si chiama Emiciclo, perché lui era convinto che Garibaldi si chiamasse Emiciclo. In gamba. Quindi quello, questo potrebbe essere una motivazione valida per cambiarsi il cognome, cioè per cambiarsi il nome. Ma ce ne sono tanti, ma mia cugina proprio non lo sopportava il nome Franca Maria, proprio lo odiava, non voleva mai farsi chiamare Franca. Io adesso molte volte dico Franca Maria e si avrà cambiato almeno 20 anni che sarà cambiato il nome. Lei no, chiamatemi Franca, io non voglio essere chiamata Maria. Vabbè, fai un secondo nome, usa il primo quale piace di più. Infatti si arrabbiava un bel quando era ragazzina, perché tu Franca Maria vieni qua, e invece no, lei adesso la chiama Franca, ufficialmente si chiama Franca. Vabbè, io prendo sempre la Ischi, vai. Io fratello me lo cambierei, capite? Cacca, questo va una partita, la neve regalando un rigore all'Inter, cacca, ma non è possibile. Tra l'altro te lo cambieresti tu? Io sì. Una cosa? A chi non mi piace lui? Una cosa. Se mi vede i nomi strani, cacca. E beh, Luca Rie. Sì, prendi di cambiare il camper oggi. Sì, cacca, l'ho comprato da poco, nuovo il mio. Cacca. Il nome se vuole cambiare lui. No. E cosa mi prendo dopo questo? Dopo questo solo un pullman, ma neanche. Ah, il nome se vuole cambiare, ma vai, Eugenio, è bello un bel nome. Cazzo, ti vuoi pigliare, cazzo, tu pensa, Roberto quindi è un bel nome molto comune, Luca, capito, ma te ne dico, manco è un nome particolare che non hanno molti, io non ne conosco. Eugenio, fammi ricordare, Eugenio, non ne conosco. Che va? Uscendo, chi è? No, non è Fabrizio, è 9.30. No, anche basso di là, cioè anche basso il segnale. Fabrizio arriva fa bello forte il segnale. Qua il vostro segnale era forte, però non sta uscendo. No, è il microfono, dai. Adesso ci butto tutto. Comunque l'Inter ha segnato sul rigore inventato lui. Come? L'Inter ha segnato su un rigore inventato, ci credi? Va. Ma da Juventus stai parlando? No, da milanista, io sono un milanista. Va, per carità, sì. Vabbè, non sto guardando la partita. Mi devono dare un programma per vedere le partite. Adesso lo aspettano un amico. Così me le guardo, gratis. Stai molto molto attento, mia. Attenzione che quel programma lì è molto molto pericoloso. Se ve lo consiglio non pigliare nulla lui. Ci sono denunce in corso, mia, per quella roba. E quale sarebbe? Sarebbe che gente che se lo stava facendo ne hanno denunciato più di 5.000 in tutta Italia. E come si chiama il programma? Non lo so, ma sarà quello sicuramente. Ma chiunque sia, tutti i programmi che ci sono tutti fuori legge. Comunque sta vincendo l'Inter. Se no ti metti una parabola da 80 cm, ti sposta a 46 gradi e te la guardi su un canale dell'Azerbaigian, ne va quasi tutte le partite. Ma il rigore che mi vedo l'Inter. Signori, io vi saluto, dai, che vado a cenare. Ciao, a domani. Ciao Ge, alle prossime, ciao, vai qua. Ecco questo rigore che hanno dato l'Inter. Ciao Ege, alle prossime. Ma se guarda la partita. Sì, ma che ci procede tu. Scusa. Ma io all'inizio secondo me sembrava farlo per il Milan, invece poi si sono toccate perché l'ha toccato, ma se tu cado prima Edo non l'ha toccato, vedo lì, aspetta, cioè, ma non segna al Milan. Infatti ho visto che, no mamma mia ragazzi, allora come caro prima del bar, il microfono, è buono, prendi come le vostre mani. Ma infatti anche a me mi sembrava punizione per il Milan, invece l'altro rigore a vita, vabbè, ce l'ha dato, vuol dire c'era roba. No, ha guardato anche il VAR, non lo so, sinceramente era molto molto dubbio. Ehi, vi avremo noi, quando l'arbitro fischia e il VAR controlla, vuol dire che c'è roba. Una bella partita, tra diritto. Sono tutte e due forti, non penso che siano lì a guardarci in faccia, non lo so. Cacca, Giumma non segna Lautaro Martinez in contropiede solo, davanti al portiere che si è decentrato, ha tirato dal calcio d'angolo, perché ha fatto l'angelo dal calcio d'angolo, ha tirato, Giumma non segna, gliela salvata, vabbè, non sarebbe entrata quasi sulla linea, il giocatore del Milan. Ehi, Lautaro già vi tira buono dentro, non ti preoccupare tu, grande giocatore quello che... bravissimo giocatore, c'è niente da fare. E me lo darie. E me, Claudio. Claudio. Ehi, guardate anche la partita. No, Claudio, non me la guardo. Sì, ma è stato il computer che non ti guarda la partita. Beh, ti comprende a te, certo. Non è di City, anche io devo giocare a Biden, devo giocare a Biden dal telefonino. Claudio, però... Adesso mi devo dare questo programmino, dai. Dai, nei siti purtroppo non ho un... perché lì è pieno di virus, non ho un antivirus buono, capito? Non vado. Cioè, da quelli mi devo resettare lo computer e metto tutto. No, me la fottinuta. Prima avevano quello Roja Diretta, lui, non so se l'hai mai visto. Roja? A quel programma Roja Diretta davano le partite. Ah, sì, già lo so. Bella partita, minchia il migliore, l'Inter sta attaccando, forte del Milan, ma nettamente superiore Robben anche come gioco. Però io me lo voglio guardare nel televisore grande e vi lascio, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ciao ragazzi, ciao Claudio, ciao Luca e tutti gli eventuali amici su 10. C'era Fabrizio, mi grazie, gli devi dare i controlli perché voleva stare provandone il microfono. Di nuovo ciao a tutti. Ciao Robby, ciao. No, non ho sentito Fabrizio, io ero distante. Stavo scaldando l'arrosto, mi ha sopra un po' arriva l'aria, così lo trovo, trovo la scarmessa. Ha reggiato il Milan? Sono qua comunque, fatemi vedere questa bellissima partita, veramente una grandissima partita. Ci sentiamo dopo, sono qua in ascolto comunque, se qualcuno ha bisogno di me, magari sono qua. 1-1! Mazzo! Mi sono girato! Bello gol! Bel gol, dai, adesso è bella di nuovo, dai, ci sentiamo magari domani, ciao a tutti! Adesso, che cazzo buffet dici? Ma non sono molto simpatici milanisti, sinceramente, non sono anti-milanista, non sono anti-interista, però preferisco più l'Inter giocando, è una squadra che mi piace di più. Possesso di palla al Milan 63%, invece l'Inter 37%, una bella differenza. Ecco, il possesso di palla da desiderare, quanti giri tu di nuovo buoni, però come gioco, se tu guardi la partita, io la sto guardando, come gioco nettamente superiore l'Inter, anche se il possesso di palla, perché il possesso di palla solamente conta, niente, e ti tocca, no, tam, i passaggi, ma anche a te me la puttano i passaggi, io devo vedere il gioco, hanno fatto già 4 contropiedi l'Inter. Vabbè, io ti dico, diciamo interista, vabbè, visto sì, però alla fine a me non mettono in busciacca. Figura di Dio, dicevo il Juventino, non voglio mettere a me in busciacca, però mi piace lo sport e lo guardo tutto, ma il Milan è una squadra che mi sta un po' sulle spalle, non sono anti-milanista, però se devo avere una partita di calcio preferisco vedere l'Inter, in questo caso ce li ho tutte e due, ma preferisco che vinca l'Inter nettamente, sicuramente, e vince l'Inter, vedrai Roberto Bobovieri che vince, non ti preoccupare. Lo sto vedendo alla grande e segna il prossimo, lo segna Lautaro Martinez. Ecco, forse che si va arrivati, io trovo un attesivo. Immagina che dove ti riquadri, a me mi veniva mangiato la culo. Scriveti quanto sono contento. Animai, mi sei un vento, sentatore mio, sì. Hai visto il Verona, una squadra che da Razzieri e B è contro la Juventus, c'è contro il Milan, è contro la Roma oggi, ma no, il Venezia che ha buscato la Roma con Venezia, cazzo, guarda, questo Verona è allucinante, è la balla è tonda, non è mica la vanno. Ma infatti allora è tondo. Sì, claro, ripeto, a me è stato come tradotto in busciacca. Ti ha giudito, a me non è appetito, mi avanti, mi hanno fatto torre la stamattina con un gaggio di Pinocchetto al Moro. E lei ci mangiato, stavolta ho cenato. Io ho fatto la pasta al forno, sono uscite. Ho cenato pasta al forno e poi ho mangiato un po' di melograno, che Marina l'ha sbucciato. Già pronto, una mela, poi ho mangiato, non la metto più, ho bevuto acqua, infatti la prossima settimana solo acqua e poi devo prendere l'antibiotico per 6 giorni. Comunque ho fatto grazie, te li passa al forno e la torta alle mele, buona ricetta, con quelle mele di campagna, ma tanto ci dà buona, un burro, buona. Mele di campagna sono buone lui perché praticamente sono naturale, capito? Non hanno conservanti, non hanno niente. Quelle che vendono sono una cagliata. Quelle sono buone. Non dice che lo muori. La ventola accesa. Sì. Il mio mitico 430 si accese la ventola che. Ascolta a me, come mai? Cicci, come mai poi, cazzo, la prima volta fa vita, stai fischiando prima. Perché sto usando l'Adonis, non l'MC60, sto usando l'Adonis col 430, e ci avevo il mitigin troppo alto, ce l'avevo a 2,5, allora l'ho messo a 2, adesso non sta fischiando più. Ah, fateci tu bussano, che strano Claudio innescando. No, non è un innesco, non è proprio un fischio di troppa amplificazione, c'è un disaccordo, quando fischia con l'innesco è diverso. Quando fischia così, praticamente c'è la preamplificazione microfonica, perché è preamplificato l'Adonis, è tra l'altro regolabile da sotto, no? Come l'MC80-85, in più le dai il processore, l'amplificazione, il mic gain della radio era troppo in disaccordo, allora ho fatto appena un parametrino e l'ho abbassato anche a 2,5, perché l'MC60 va a 2,5 come il mic gain sul 430, mentre la 12 deve andare a 2, vedi, non sta fischiando più. No, non ho problemi di inneschi, si tratta solo magari quando cambia il microfono. L'ho provato, perché la 12 era sul 140, adesso lo metto sul 430, a vedere se funziona bene. È una bomba, Sì, sì, sì. Ho voglia. Una bombetta. È aperto perché il bar oggi, là. Più tua figlia. Allora, si è atterrato di cantori. Non stavo aprendo la domenica, adesso ho deciso di aprire la domenica. Lei va domenica mattina. Fa l'apertura, poi stacca l'ora di pranzo, ritorna alle 6 e si fa la chiusura, capito? Lui lì c'è un bel lavoro, un bel, qua posso lamentare, sto lavorando un bel, infatti adesso in questi giorni stanno selezionando, perché non era sola, stavano selezionando altre due ragazze, vediamo, sicuramente ne inseriranno altre due perché non ce la fanno. È aumentato tantissimo, grazie a Dio, è aumentato un bel. Ma è meglio così, meglio, però. Solo che va tutto bene per quanto riguarda questo Covid. E vabbè, poi è un bel, c'è lì un punto buono anche. Sì, perché l'Italia, poi adesso in questo periodo c'è delle manifestazioni, anche stamattina c'era una manifestazione, capito? Ci sono i gazzetti dell'esercito, c'è un bel movimento e quindi dicevo, io voglio dare un servizio, vogliamo dare un servizio, quindi fate voi sì. Immaginate di che Alemania ha fatto, l'apertura l'ha fatta fare la collega, quindi lì è andata alle 9, è uscita alle 3, dalle 9 alle 3, 3 e mezza deve attaccarsi, alle 6 è riandata, 6 e mezza, doveva andare via alle 10, 10 e mezza, se non chiudono loro alle 10, 10 e mezza, chiudono le 11, mezzanotte, però ieri hanno sceso così, e da lui al biliardo, tutte e tre, le tre femminucce, capito, sul potere accoglie i vicini, se ne sono andate a cena fuori e l'aria è rientrata a Bursa, ha fatto l'una e mezza di notte, forse anche di più, stamani a 10 e mezza la torre in terra perché alle 7 e mezza c'era l'apertura. Non è, c'è quello un lavoro tosto, sembra così, stai in piedi, non è pesante, dico, non prendi pesi, ma è pesante, gridi camellà, andai turrà, lo so, è un lavoro, non è facile farlo. No, ma manco se ne sbaglio a peggiorare, te lo faccio più davanti, ma stai cercando, fa 12, 13, anche 14 al giorno. La macchina del combattimento, lui già la conosci, la macchina della guerra, era la piccola. Secondo me tu sei guacuo, ma non sei buona vedita, perché è impossibile che sei in piedi così. Oh, c'ha l'artrite reumatoide, ogni venerdì si fa la puntura alla pancia, non è messa bene, ma è una macchina da guerra. Lo so, perché è giovane, tra. Italia è giovane, quanti anni ha? È giovane, è 35, ne fa 20. te, cazzo, ne ha 12 meno di me, già voi, cioè, vabbè, perché alla fine poi, cazzo, cioè, ha scelto quel tipo di lavoro perché, vabbè, le piace, non è che uno sceglie un lavoro perché non ce n'è, le piace quel tipo di lavoro, ti greba, dai, ti crepa. Non so, poi non è solo servire, poi ricontrollare i frighi, se la birra è a posto, soprattutto d'estate, perché la birra attrisce a fiumi, non è, ma io non so, ti faccio un esempio, un micro dal circolo, e me ne esci di gabbo, perché la birra esce come l'acqua, e poi devi controllare il pozzetto, se la birra è bella fresca, la devi mettere in frigo, poi di nuovo le riempire il pozzetto, è un casino. Non so, ha scelto quello vuoto, l'aria ha fatto l'alberghiero per fare quello, l'aria c'ha quattro corsi, l'aria se tu la vedi decorarti il cappuccino ti metti le mani in testa, capito? Ha preso il massimo dei voti in Caffè Arte, hai capito? Ha fatto il corso di Caffè Arte, non prende niente, ha preso il massimo dei voti, l'aria ti, con la fiuma ti fai disegni nel caffè, nel cappuccino, nel suo lavoro, si diploma per alberghiero, sala e bar, con 110 all'ora, ha avuto anche la borsa di studio, ma buffone dice, è un cranio, a 15 anni me la volevano portare via, avevo fatto uno stage al Miglia di Olbia, che è una multinazionale spagnola, in settore alberghiero, se la volevano portare in Spagna, è diventata lì, non andarlo come lui, a girarmi le balle. È brava, è dall'età di 14 anni l'aria dietro il banco, hai capito? Dall'età di 14 anni ho fatto quello perché quello le piaceva fare, quello vuole fare e non si ferma qua, ti spiegherò, ma non si ferma qua, tranquillo, non si ferma qua, vuole fare qualcosa di più grosso anche. Ma vabbè, piano piano le cose si fanno qua. Quindi Lello, quel bar là, quello che doveva dare a te l'affittato, c'è un'altra coppia adesso. Voglio per lui, io non lo volevo, come diceva lui, io volevo un bar, capito? E lui mi ha detto che non si poteva fare perché era incasinato, cosa ci aveva sotto, non lo so, io mandare i casini e gli lascia perdere. Poi ho riproposto una seconda volta, quando lui è entrato in società al mercato, gli ho detto ma lo dai? Dimmi quanto vuoi, no, non me ne ha più tenuta, dimmi quanto vuoi, giusto così per passatempo, niente, ti faccio sapere, non mi ha mai fatto sapere niente, mi dai in culo, io lo volevo comprare quello, volevo comprare le attività, dimmi quanto vuoi, ti dici ai coglioni, invece mi ha detto non poteva farlo, sicuramente incasinato con il quadro di gas, lo organizzo qui. Questo non te lo posso dire, adesso ce l'ha presa a Bancali, ci ha preso Marta Bacchi. Non so, sì, sono in contatto io con lei. Infatti mi aveva chiesto anche scusa, certo. No, ma tutti, io ti ho fatto la mia proposta. Tu non sei stato d'accordo, no, problema, non ce ne sono. Amici come prima, figurati. Capito? Però io quando prendo la cosa non sto lì a girarmi le balle, non voglio avere problemi, se me la dai deve essere in regola, se non me la dai no, non ne voglio, capito? Se ti dico cucini, papà, tanto non ha che bella ringa, lo sapete, mi volevo regalare una macchina, da poco, un amico mio, un amico fidato, un amico, l'ha giocato la Giorgi. Non ti permette nel piano di farmi una cosa del genere, perché io te la taglio la testa e te la metto a posto dei piedi. Certo, mi vuoi regalare una macchina confiscata, con il fermo amministrativo. No, mica, ti regalo questa macchina, tu ti fai il passaggio e te la tiri, intanto non me ne faccio più niente. E quasi quasi lo stavo facendo, mi può servire per fare degli spostamenti, capito? Siccome io sono più furbo, perché non so guardare dove nate le mani, c'ho un carissimo amico che abita a Carbonati nel mio palazzo e lavora al PRA, gli ho mandato la cosa della targa e gli ho detto amico mi controlla mi questa macchina c'è pulita, mi ha mandato un messaggio, ho fatto le lacrime e tu come si dice? Ah, per favore, mi ha detto che ci ha fermato amministrativo quella macchina, poi fermato passaggio, allora vai da due, fatta amico, ma mi fin è vero infami, mica. Ma ci sono certi amici infami, amici, conoscenti, infami, che non viene bene a dirlo, cazzo. Ma che la vuoi fermare? Vabbè, la prendono comunque, se la comprano, eh. Ah, non puoi fare niente, lui, ma stai scherzando, ormai è questo amico è bravo. Ma lascia perdere, ti crescono problemi. A parte il fatto di fare la cosa del CDP, del certificato di proprietà, ma non è il certificato di proprietà, la presa di possesso, devi spendere un sacco di soldi. Ah, guarda, ma adesso dimmelo, no, mi prendi questa macchina, è così e così, io purtroppo non posso fare niente. Però dimmelo, se cazzo mi regali una macchina da farmi il passaggio, regalato, fai il passaggio e te la regalo. Andava avanti, beh, una macchinetta piccolina, giusto per fare. E poteva servire, non mi diceva, ma non poteva servire. Capito? Gliel'avrei anche pagata, mi perché gliel'avrei anche pagata. Certo, però dimmelo, no? Io ho fatto questo controllo e il risultato è che non mi è attivo. Non sei una persona seria, sì, mi fa male, capito? Come ti viene tanto. Vabbè, mancumari, va. Mancumari, cazzo. Sennò un casino. Ah, è un buio. Ma che aspetta. Ma non ti aiuta, non ho bisogno di macchina, sono molto bene così. Ho le moto, sono bene così. La macchina quando mi serve, mia figlia usa quella, insomma, la mattina. Sono andato in comune all'ufficio tecnico che devo fare. Mi hanno chiamato all'ufficio tecnico. E quindi una mattina c'ho appuntamento lì alle 10:30 e poi niente, poi mi rientro a casa. Capito, mi è bello bene, tutto qua. Vabbè. Comunque. Cosa vuoi dire? Un'altra cosa. Ma dove sei a casa tua? C'è a casa di marito. No, a casa, qua. Ma fanculo, ogni volta adesso mi dimentico giù. Io mi dico a Brescia, no? Invece del il locker a destra qua della 12, invece del MC60 a sinistra. Come stavo dicendo, ah è vero che sì, domenica si è già rientrato, solo il fine settimana vai a Marina, no? Via, claro. Solo il fine, e vabbè io ho una cosa da fare qua, tu conosci un lavoretti da fare, devo stare qua, oh, via, casino, va. Mira, la prossima settimana, claro. Sono a fare quel lavoro là, quel lavoro al dentista. Oh, mamma mia, il 10, dai, faccio tutto. Ascolto, Garie, è di là quando inizi, non per sapere i cazzettoni? Di là, inizio quando mi chiamano, qua. Ah, non chiamano subito? Ma hai già fatto colloquio tu, così è? Ho fatto colloquio e firmato anche. Ma è obbligatorio firmare? Non è fatto che è obbligatorio, no. Cioè devi firmare, sì, c'è tutto quello che lei ti chiede e poi mi ha messo, come si dice, adesso mi viene la parola, affanculo. Ci sono due tipi di lavoro a fare, l'ambulanza oppure assistenza ai disabili. E boh, solo quello. Sì, per quanto riguarda il verde urbano, no, non c'è niente. Infatti ho detto, se c'è il verde urbano, tagliare l'erba così. Allora mi ha detto che sono dalle 8 ore alle 16 ore settimanali. Sì, ma quello voglio capire io, poi Daniele Massia, ma non te lo toccano il reddito però, cioè non lo toccano, è una tiranno il pelone in più. No, ti fanno fare quelle ore in base a quello che prendi, capito? Cioè se uno biglia, sto ipotizzando, se uno prende 1000 euro di reddito di cittadinanza perché l'aspetta di diritto, non sto parlando ai piscuani, ai ladri, a quelli che non l'aspetta, che stanno cercando, stanno trovando un sacco di furbetti, ma uno che ha 1000 euro di cittadinanza perché ha due figli, perché c'ha la figlia a pagare, perché c'ha quello, c'ha quell'altro, cioè va lì a lavorare e mi dà 20 cos'è? Se tu prendi 1000 euro, no? però ti fanno fare in base a quei 1000 euro, ti fanno fare le ore. Se per dire, penso che sia per tutti uguale, chi ne prende 1200, 1300, capito? E ti fai quelle ore, ti dice, aspetta, ti dice 8 ore settimanali oppure 16 ore settimanali, ancora non ho capito bene, a me l'assistente mi ha detto 16 ore. L'assistente sociale, siccome, te lo dico perché, per progetto la prova, mio nipote l'hanno chiamato, l'ha chiamato l'assistente sociale e c'è appuntamento come fare perché domani o martedì, lunedì o martedì 8, 9, martedì, capite? Ma così, vai, ascolta quello che ti dicono e poi cazzo vedi. Ecco perché vi ho fatto queste domande, perché non ho capito. Poi se ti rifiuti, prima dicevano che devi fare 100 km da casa, non so dove, tipo potevi arrivare anche a Olbia così. Vabbè, comunque mi ha messo a scegliere, io ho scelto la sorgente lì a Latte Dolce, mi viene benissimo, mi prendo il tram da Via Pascoli a 25 e mi molla proprio di fronte. Poi mi ha chiesto se avevo la patente, ho detto di sì, ma se avevo la patente magari mi faranno anche guidare, non lo so, faccio quello che voglio, magari là, chi lo sa, ma mi prenderanno in simpatia e metti cose in mezzo, magari mi assumono pure, chi lo sa. C'è anche la possibilità che puoi entrare fisso. Non lo so, questo non te lo so dire, però chissà, ma ti vedo volenteroso che collabori e ormai ti prendo in simpatia, non lo so. Vabbè, io poi domani non devo andare all'ufficio tecnico, provo a chiedere informazioni più dettagliate all'assessore. Lui già mi dice a chi non ha compreso un accidente, no beh, 8 ore settimanali, e quanto ore settimanali che ha preso un'ora da lì? Così ha detto, dalle 8 ore alle 16 ore, poi altro non so cosa dirti, comunque chi rifiuta gli verrà bloccato. Gli verrà bloccato addirittura, sì. E se uno ha delle patologie che non può travagliare, come tenere a buono, ne ha dei contatti documenti alla mano, perché mio nipote c'è anche delle patologie molto particolari. Allora, se hai delle patologie non lavori. E soprattutto non è vaccinato. Se non è vaccinato non lo so dove lo metteranno. Lui che a me c'è in strada a raccogliere mondezza, cosa ne so, tagliare i ciuffi di erba, vai con la zappetta, fai le 2 ore. Come si faceva un tempo con il servizio civico, no? Si tagliava l'erba nelle scuole, anche nelle vie, nelle viuzze, così, raccogliere la mondezza. Così è claro. Ripeto, se uno ha patologie non lo fanno lavorare. Però, aspetta, un tanto di documenti, c'è un tanto di fogli e fogliettini, oppure se hai tipo adesso una certa età, adesso intorno ai 65 anni, non ti fanno lavorare. Ci vediamo già mi c'è una grossa lira disipirato, ecco perché vi sto facendo queste domande, soprattutto non tanto a te che tu non sei, insomma, non sei in mezzo, ma a Daniele. Mo vediamo cosa dici. Ok, beh, no, che non si porta nulla, non segna nessuno, tutto bloccato. Ancora il coso, mi sono etichetto, l'ho tolto oggi, c'era la pellicola trasparente attaccata a questo, nella base di questo microfono, l'ho tolto, mi piace. No, con questo video ho detto che si è piatto di tutto, però alla fine lui lavora, solo lunedì è libero, c'è a riposo, da tutta la settimana lavora. È un casino per lui, vabbè, ma le srubbiate quando c'è la propagation si fa qualche modulata. E poi sai cosa c'è anche, siccome lui, non so, quello modificato Colt, che il Jackson, President Jackson, se ne ha comprato un altro, e lui cosa vuole fare? Vuole passarsi tutte le modifiche, se no non ce la fa, perché non è un gioco, non è questione di file, filetti, ci basa tutto, no? Ci sono anche io ho visto che mettono anche dei condensatori, come si chiama, resistenze, elettriche ballacche, non è semplice, ti lascia perdere, fallo fare a uno bravo, no, intanto mi segno tutto, ve lo faccio io, se no non ce la fa. Vai, mi sei fatto buona pizza a Margherita, cosa di te, non ti chiami Ceri, tutti sono bravi con la bocca. Ah, prova a chiedere a Fabrizio cosa ci vuole a fare un baracchino Colti, che lui tecnicamente non ce n'è per nessuno, preparatissimo in materia, se dove mette le mani, sa che cosa sta facendo. Ma stai scherzando, vabbè, c'è un lavoraccio negro, ma lasciate perdere. Non ci improvvisiamo tecnici quando siamo bitaioli o siamo, non lo dico, dai. Lui vuole fare fare il casino, come per prendere un chiss antenna. A me mi è andato le foto, l'antenna l'ho vista, l'ho controllata bene, attentamente, è da una parte di antenna, perché è stata spezzata, è stata tagliata a seghetto o a mola, proprio dove cazzo c'è la giuntura della resina, capito? Quindi manca quel pezzo, come fai? Solo per dire, un Fabrizio può farti tutto il pezzo al tornio nuovo, eccetera, ma non usci tu sempre un dubbio cosa le fa. Ma cosa stai dicendo? Cazzo, mi mancano i 30 centimetri di isolatore, ma cosa stai parlando? Non serve a niente con l'antenna, pure completamente rifatta. Infatti è come quella famosa antenna che io l'avevo presa da quella casa abbandonata, ti ricordi, mia cazzo di letta? L'avevo un po' assemblato, ma non, ormai non risuonava più, claro. Ehi, non temere che sono qua, sono andato, ahia, a prendere una sigaretta, e di questo qua con il freddo, più, vabbè, c'è un'altra, adesso me la fumo. Ehi Lu, ma infatti te lo sto dicendo, lui mi ha mandato la foto, io le ho mandato la foto della mia, ho detto guarda la differenza che c'è dalla tua a questa, e poi non si può allungare, mio zio salda l'alluminio, ma non si fa vedere che c'è un pezzo d'alluminio, si fa vedere che ti manca un pezzo di resina, un pezzo di isolatore, non va bene. Sì, magari sulla piazza si usa l'accordatore, cosa ne so. Infatti stava cercando un accordatore, se no l'unica secondo me lo sbaglia, si compra la Game Master originale e ha fatto un bingo, la mette lì e non ha bisogno di tarare né niente, già tarate tutto, la mette un po' altina, no, tu usa ne ricicla, da lì sparami. La Game Master, che mi sono finito di differenza, avrei preferito più comprare la J-Pol, quella che ho io, per non arrabbiare lo stesso, mai 8,50 m, ma 7 ottavi, quindi ha un guadagno superiore, soprattutto quell'antenna che c'è, l'antenna che ho io, può lavorare un metro da terra, quindi lui se le fa un tubo di un metro nella ringhiera e l'attacca, che pesa 7 kg, è 8,50 m, è alta, c'ha il radiale piccolo, l'altro pezzo piccolo, gli altri 2,50 m che è a fianco, sono due antenne, una da 2,50 m e una da 2,50 m, quella fa la direttore, ma se non può sparare da lì, capito? Costa 160 euro, costa la Game Master, 180 euro più il trasporto, costa quella che ho comprato io, ma è tutta in alluminio, un altro tipo di antenna, è una 7 ottavi, non una 5 ottavi, 7 ottavi, l'ho già detto. Io ce li ho, ne ho due di piantoni nuovi, lo sai, ma non li do, perché poi quando servono a me, è già successo, devo gridare che è vedo, uno me l'ha dato Gianfranco e l'altro il piantone è quello di Gianni, non li do, a meno che proprio non sono costretto, un amico come te, mi, lo dico pappale, se dovesse servire a te, allora te lo do uno, ma lui non glielo do, me lo tengo, capito? Ma questa antenna che ti hai preso tu, questa 7 ottavi, la piazzi come una Game Master oppure da tarare? No, io piazzi tutto l'elemento da 8,50 m, poi l'altro elemento, che c'ha due barre in acciaio inossidabile, fanno piazzate come le tappe palo palo, c'ha gli isolatori in batilite, c'ha il connettore d'antenna, c'ha il ballon 1 a 1 e va regolato, va tirato su fino a 2 metri, minimo fino a 2 metri 35-33 e c'ha dal canale 1 al canale 80 0,8 di stazionaria nell'U, capito? Neanche uno, non si muovi, ha già attaccato il lineare grosso, 0,8, picchi a uno di stazionare, picchi a uno, no come te la mantovano, e quando attacchi il lineare cazzo vai 1,1, cazzo 1,5, 1,6, è un'antenna, è una 7 ottavi lui, è una 7 ottavi, io ho guadagnato 5 punti esce da tutte le parti 5 punti esce ho guadagnato. Sì, ma c'ha la spirale, no? Non la spirale, no, Lu, ti faccio la foto domani alla luce e te la mando. Cosa spirale? È un tubo da 8,50 metri e non ha bisogno manco di essere isolato, vulcanizza nuda, sopra c'è un buco per scendere l'antenna e l'acqua e scende da sotto, sempre dentro il tubo l'acqua, non va a corrodere spirale, non va a corrodere il coso, l'isolatore, non va a corrodere niente, tutto separato, un'antenna eccezionale, ma lo sai quanto funziona bene? Sì, la durata? La durata, 880 km/h di vento, 5 kW di potenza, ma stai scherzando, è in alluminio. Vabbè dai, comunque la durata di 30 anni, come l'avanzo qua? Non lo so l'alluminio di che marca è, come è fatto, però questa Smartec, questa antenna era un'antenna militare nata secoli fa, capito, lo usavano i militari, questa antenna è stata rimodernata e rimessa in scelto per risuonare nella 27, è un'antenna storica, è un'antenna storica, la Smartec è una grandissima casa costruttrice di antenne, capito? Vabbè, alla fine poi, comunque costa intorno ai 200 euro, voi di spedita. 220 spedita, io l'ho pagata 180 euro, perché mi ha fatto praticamente, non mi ha fatto pagare nella spedizione e me l'ha data a prezzo di costo. Però io gli ho mandato un sacco di lavoro a Vittorio, capito? E la stessa persona che ha riparato il 440 di Giulio, il mio 430, ma ha fatto un sacco di lavori a me, capito? È un po' così, è fatto bagaglio che va, a volte lo chiami non ti risponde, lo chiami ti risponde dopo una settimana, ero in Francia a fare lavori, ero tutta di casino, sono fatto male, cazzo risponde al telefono che ti varia un raio, mi sono entrato Smartec, giusto? Anche se c'è il computer qua, digita Smartec e poi scrivi J-Pol 27, guarda l'antenna, quella è quella che c'ho io. J-Pol? J lunga P 27, J-Pol, puoi scrivere J lunga Pol 27 oppure J-P 27. Mi ci messo una data. Quattro malata, nessun risultato mi dice, aspetta. Io non so. Io devo andare giù a fanculo. Che qua c'è? Lasciamo da. Qua c'è la Delta Luft, la Iaggi. Lasciamo vedere se no. Verticale, ah eccola qua, J-Pol, eccola qua. 166 euro costa. Esatto, io nel catalogo, nel manuale suo c'è scritto Smartec, poi c'è scritto verticale J-pole per 27 MHz, modello 27 VJ, ecco, modello 27 VJ, quella lì è. Sì, la sto vedendo, allora, lasciamo vedere, 50 ohm. 50 ohm rosso 1,1, ma la capacità di trasferire nello spazio circostante la maggior quantità di radiofrequenza ricevuta dal campo. 27 MHz. Aspetta un attimino, ecco. Ho visto. Altro fisico. 27. Ma c'è scritto anche, aspetta, 5 ottavi non c'è scritto però, ma 7 ottavi. Già c'è scritto 10, 8 metri 50 se toccavi. Tu immaginati, la 27 VJ Smart Tech ha una caratteristica di presentare il lobo di radiazione principale, stai attento, sull'orizzonte, estremamente basso. Qualunque sia l'altezza di installazione, come dimostrato dai grafici, perché c'è il grafico, caratteristici dell'antenna, da un metro, da 1 a 30 metri dal suolo. Tu immaginati, c'ha guadagno 8,30 dB di guadagno, impedenza 50 ohm, potenza sopportabile 5 kW, ROS 1, adattamento di impedenza, c'ha la linea di filare, che è quello piccolo e radiale, a 450 ohm cortocircuitata. È un'antenna eccezionale, Lu, credi a me. Io sto guardando. Sì, io ho letto tutto, qua guadagno 8,29 dB, impedenza 50 ohm, potenza sopportabile 5 kW, ROS 1.1, poi adattamento di impedenza, come hai detto tu, linea di filare a 450 ohm, cortocircuitata, pesa 6,5 kg. Aria protetta, aria proiettata, piana cilindrica, 0,15, non so cosa vuol dire, guadagno di fuori, sì, e la sto guardando qua, bella antenna, ehi là, se la manto qua a buon fine, ma vabbè, la manto qua lì, questa qua vuole smontata e pulita. Sembra compagna di Bruio. Io la manta non l'ho tolta perché è ancora praticamente ce l'ho in la sto insomma tenendo sotto controllo, no? Però viste le prove tecniche che ho fatto con due radio della Kevlar, il 430 e il 140, sul 430 c'è la mantova, che è questa, aggiornando con la mantova, se io accendo il 140 e c'è la Gepol, e tu guardi bene lo Smith, te ne accorgi subito la differenza, capito? Quindi sto ancora vedendo un pochino, ma questa estate io la mantova, che è perfetta, la smonto, me la pulisco tutta, me la conservo e me la metto da parte, ne tengo una solo, tengo la Gepol. È da 4 metri che adesso, che poi sono due attaccati al muro, chi sta lavorando sono 2 metri, tirato a 8 metri, allora vedi lo geniale, allora dice cazzo qua, ma lo sei gombinato. Sì. È bellina come antenna, ma poi è anche leggera. Più leggera della manta va sicuramente. Sì, qualche chilo in meno, ma niente di che. Come piantone però se lo metti in culo la mantova, se tu guardi bene la foto dove ci sono i cavallotti tutti non ci sono, guarda gli isolatori, sia i primi isolatori che ci sono che mantengono il piantone con la piatta non c'è inoscirabile, sia gli altri due isolatori dove c'è poi il balum che è collegato alla Gepol, no, all'altro pezzo da 2,50 m. Veramente fatta bene, fascette, tutta la cera ossidabile, tutta la cosa che ti manda, tutta la cera ossidabile, quando tu fascetti poi l'elemento, non puoi sbagliare perché non va come la mantova, no, Ruboni, no, mi metti l'elemento che metti e c'è un foro dove ti dà il disegno dove devi mettere la fascetta e poi c'è un foro piccolino dove chiudi con la vite autofilettante in acciaio inossidabile, quindi c'è fascetta e vite autofilettante in acciaio inossidabile, è fatta bene lui, veramente è fatta bene, veramente. Sì, se l'ho vista, è bella come attento. E vabbè, tanto io qua, se non passano a sistemare i tetti, ci può anche stare, cioè salgo ma la sistemo quella lì. Oh, sai, ci faccio un pensierino su quell'antenna. La manto la smonto tutta, me la pulisco bene, me la conservo come fai tu, uguale. Né più né meno. Poi, vabbè, radiali sicuramente adesso come li tocchi di vazi, mamma mia, devi smontare con i guanti. Quelli magari vogliono carteggiati, poi gli dai il prodotto, come avevi fatto tutti i ricordi, trasparente li avevi dato. Sì, Vannino me l'aveva detto che c'era un trotto per la Vecchia, lui lavora molto alla Vecchia, Vannino ha lavorato una vita nella Vecchia. Ma che c'era un prodotto spray, l'ho comprato da Carboni, una pretanietà, costa anche la bomboletta piccolina, mi pare da 7 euro. L'ho pulita con la tela fine, i radiali, e poi ho dato questo spray. Praticamente sono diventati lucidi, tu le facci la mano, non ti si attacca nulla. Sono sempre così, perfetti. Nuovi. Capito? Se no stavo andando per mettere anche io i radiali in alluminio, e invece ho messo quelli su in resina, capito? Quelli su in resina. Vabbè, sì, me la conservo, quella la tolgo, questa carta, me la conservo, la sono solo, se gli stiamo diventando, ancora sono in fase di sperimentazione, però già ho visto le caratteristiche, ho visto i segnali, non c'è paragone, QRM, di tutto, di più, non c'è toccato, poi parlando con Giulio, che lui di antenne già ne capisce, ha fatto il calcolo, mi ha detto, ma stai scherzando, è quasi un'onda intera, mi ha detto sicuramente, nettamente superiore alla Mantova. Vabbè, comunque lui siamo abituati alla Mantova, chi con la Mantova Turbo, chi con la Mantova 1, chi con la Mantova 5, capito? No, claro, questa qua che ho io, ora pulita comunque sia, vabbè, tanto se vai a smontarla dove ci sono le fascette, quelle dove hai messo la vulcanizzante, tu lì sarà ancora lucida, se vai quella si smonta facilmente. Ma lui, quella quando sarà che decidi di fare il lavoro, che la fotti non da noi, se dovessi non smonta, ne avremo in teoria a terra e faccio il tutto, metto il piantone nuovo, ma la cena frutta. C'ho piantone, c'ho i tubi, c'ho gli elementi, c'ho radiali, c'ho tutto di 40 metri. No, ti ne ha fottuto quando decidi, se volete mettere quella, noi la piazziamo nuova. Non c'è problema, perché quel piantone che mi ha dato già, me l'ha trovato nuovo come. Non ho toccato niente, spirale, ho messo la spirale nuova, quella che c'era nell'altro piantone che era in corto, che l'hai visto nuova, la spirale, ho messo quella, la spirale che aveva fatto Fabrizio, l'ho scelto quella lì, non ho toccato niente, ho boccolato tutti gli elementi, entra nel radiale in fibra, giusti, con le ventine là sotto, originale, diventata nuova, non avevo problemi. Beh, certo, quando le pulisci, e ne ha preso tempi di questa qua, allora mi lasciava adesso, io adesso sono un master stazionario, e uno, le baracchine non lo sto controllando, aspetta, certo, se lo controlli col qualcosa, non è che cambia, però quando piove un po' mi salgono. Praticamente mi sono tutti i canali 1.5 modulato, 1.6, 1.7, da anche nei canali alti. Claro, vorrebbe smontata e pulita. Bella lugaria, vuole smontata, accorciata leggermente, se c'è così alta stazione vuole abbassata leggermente la spirale, si mette il cavallotto nuovo, si pulisce tutta bene, dall'ossido, capito, con la trenina, tutto bella pulita, c'è una bella facciata di vulcanizzante nuovo, e a te non ti preoccupare tu, facciamo nuova con l'antenna, se poi non si riesce a smontarla, si mettono tutti i pezzi nuovi, non ce ne provo, ho detto anche a Franco, cioè, però Franco ha detto non lascio questa perché va bene, se non la manca è troppo grande, non problemi, capito? Non c'è nessun problema, però Saverio, i Sant'Anna della Rampa, non si viene nulla, e conviene prendere una come quella che ho io, di queste J-Pol, che sono leggere, lavorano bene anche dal fagiolo, oppure una gemmata, basta, non puoi pone una matta, 20 di attaccata, ma è una cagata, i radiali toccano al muro, non il radio all'antenna, pieno di stazionarie, te fa un sacco di background, un sacco lì ci vuole un'antenna senza radiare. Infatti, come sto dicendo io, una rimasta e una come la tua. No, c'è bellissima come antenna, bella, poi c'è leggera, non ti crea, non ti lascia l'ansia. A me questa antenna qua, quando c'è il vento mi piglia l'ansia, mica. Mi piglia l'ansia, che se mi va la guardo me di danno, mi capito. E intanto io la prima cosa che devo fare, mi compro il materiale, detto come poi mi dà la mano Roberto per fare le saldature, boh. Poi mi dirà lui come fare. Le metto quella staffa bene.